Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 25. Ma torniamo alla lettera Yud. Come possiamo vedere, i quattro elementi qui in questa lettera così piccola. Come ho detto prima, tutto deve essere quattro. Così anche la lettera Yud deve essere quattro. Per prima cosa abbiamo la singolare lettera Yud. Yud è un altro modo per scrivere questa lettera, è Yud Vav Dalet, o come la lettera è pronunciata nell'alfabeto ebraico. Yud. La singolare lettera Yud è Chokhmah senza limiti. Quando scrivo per esteso Yud Vav Dalet, questo significa che c'è stata una limitazione. E quando c'è una limitazione, qualcosa può essere riempito con la luce. Ha il valore numerico 10. Ma quando guardiamo da vicino, ha Yud Vav Dalet. Vediamo che anche il valore numerico è cambiato. È diventato 20. Yud è 10. Vav è 6. Dalet è 4 e insieme fanno 20. Il passo successivo è quello di vedere come Yud ha in sé ogni cosa. La lettera Yud sottolineava che è solo Chokhmah, pura concentrazione di Chokhmah. Ma quando tu scrivi Yud Vav Dalet, ci sono tutti gli elementi. Lasciami provare a spiegartelo. Di nuovo prendiamo il nome di Havaya. Yud è Chokhmah. Yud Vav Dalet è Chokhmah del nome Havaya. Piena. Poi vediamo la lettera Vav e la lettera Dalet. Insieme Vav e Dalet fanno 10. Vav è 6 e Dalet è 4. Insieme si riferiscono a Yud perché Yud è anche 10. Vav e Dalet insieme sono la Binah. Hey. Di Chokhmah. Così ora abbiamo Chokhmah e Binah dentro questa lettera Yud. Come dice Yerampin e Malchut, perché abbiamo detto che tutto deve essere quattro. Chokhmah, Binah, Yerampin e Malchut. Non importa se non hai ancora compreso guardalo, giocaci. La comprensione verrà dopo. Abbiamo Vav e Dalet, due lettere singolari. Vav è Zeiran Pin, nel nome Avaya. E Dalet è Malchut. Ma quando guardiamo da vicino, Abina, Hei, vediamo una grande Dalet. È dentro un piccolo Vav. Puoi vedere questo? Quindi Vav e Dalet insieme fanno Binah. Qui nella lettera Yud Vav Dalet in pieno, il Vav è Zeiran Pin, come ho sottolineato prima. Zeiran Pin è del Chokhmah. Ma in Binah vediamo anche il Vav. Hey, ma qui è ancora piccolo. Quando guardi attentamente, vedi che Vav non è completo. In un modo in cui gli manca la sua testa. Questo è per sottolineare che Zeiran Pin è ancora un bambino nella pancia di sua madre Binah. Vav e Zeiran Pin, la terza lettera del nome di quattro lettere, Avaya, Yud, Hei, Vav, Hei, è spesso scritto come Avaya. La ragione è che non dovremmo usare il suo nome invano. E quando vedi scritto Avaya è come pronunciare Yud, Hei, Vav, Hei. Questo è molto importante, tienilo nel tuo cuore quando vedi questo nome Avaya. Non parlo di peccato, ma devi sapere che devi stare molto attento con questo. La sua forza è nascosta in queste lettere, la forza di Ein Sof. È possibile danneggiare la sua forza? Prima c'è Ein Sof, e da lui sono arrivate tutte le lettere. Vedi queste lettere come uno sviluppo, il nostro sviluppo? E possiamo noi danneggiare il suo sviluppo del Avaya. La cosa più importante è che dobbiamo renderci ricettivi per la sua luce. Naturalmente all'inizio c'erano regole severe. Prima della demolizione del primo tempio era vietato all'uomo toccare il rotolo della Torah o di andare nel tempio di notte, perché di notte uno è inquinato. Era lo stesso per le donne. Quando avevano il loro periodo, era proibito loro di andare al tempio. A quel tempo uno aveva così paura che tali persone potevano offenderlo, così erano visti come un pericolo per il santo creatore. Solo quando il periodo era finito e quando si erano lavati ritualmente, Potevano entrare nel tempio, ma solo la sera. Perché la sera, quando l'alba stava scendendo, un nuovo giorno cominciava, e comincia, e poi fu loro permesso di andare al primo tempio. Ma quando il primo tempio fu distrutto, significa il superiore fu occultato e il secondo tempio fu pronunciato. La forza era già cambiata all'interno dell'uomo. Il suo ego divenne più grande e ora a ognuno è permesso andare al tempio. In ogni condizione. Tutte le leggi severe sono finite, ma un cabalista comprende questo. Per lui non è la fine delle leggi severe. Devi essere molto raffinato con i tuoi punti di forza, anche con i punti di forza fisica. Non lo diciamo con così tante parole, ma tutto è connesso con ciascun altro. Quando uso la parola sporco, non intendo che qualcuno sia sporco, perché non si è lavato da sé. Tutto è connesso. I tuoi occhi, la tua bocca, il tuo cuore e le forze inferiori. Queste sono le quattro lettere dentro di noi. Yud è Chochmah, e Chochmah si riferisce agli occhi. E la prima lettera del nome è Binah, e si riferisce alla bocca di un parzuf, della struttura spirituale di ogni e tutta l'esistenza. Il Vav è Zeirat Pin è il cuore. E la seconda Hei è la forza inferiore chiamata fondamento, in ebraico Yesod. Corrisponde al posto dell'organo sessuale. Questi sono anche i quattro principali luoghi spirituali nell'essere umano, che devono essere portati in conformità con la forza del nome Yud Hei Vav Hei. Tutto nella struttura spirituale umana deve essere pura, e quando uso la parola opposta, sporco, non intendo che qualcuno non si è lavato, ma non si è purificato. I suoi quattro principali luoghi spirituali. Dobbiamo essere molto attenti perché queste sono cose molto sottili. E l'uomo deve portarsi in conformità con questi quattro elementi, sempre in ogni azione e attività. Tutto deve essere in conformità con lo spirituale. Non pensare che puoi peccare qui sulla terra. Ma quando vuoi andare avanti nello spirituale, devi portare te stesso in conformità con la vita eterna. Quando vuoi venire in conformità con il superiore, devi essere molto attento a quello che fai. Non è possibile evitarlo a lungo. Lasciami tornare al nome. Ziran Pin e il Vav nella lettera He e Dalit è in un modo un tetto sopra il Vav e si riferisce a Malchut. Dalit e Malchut, e possiamo vedere questo nel significato delle parole ebraiche Dal. Dal significa povero. Malchut è povertà. Malchut non ha nulla da lei stessa, solo ciò che lei riceve da suo marito Zeiran Pin, perché da Zeiran Pin arriva il secondo versamento. Versare significa che il maschio dà qualcosa e lei può ricevere. Ma qui nella lettera He c'è solo un piccolo spargimento del Vav a Malchut. Malchut è femmina ed è l'elemento ricevente. Ma cos'è Ziran Pin senza Malchut? Niente. Cos'è un uomo senza donna? Solo come luce. Ma senza clì. C'è solo la ricezione, ma nessuna manifestazione. È il desiderio di Boree che abbiamo tutte e quattro le fasi, che significa dalla luce sottile alla luce più grezza. Come ho detto prima, Binah limita Chokmah, ma una piccola limitazione è Vav e Dalet, Ziran Pin e Malchut sono i suoi figli. Impariamo a conoscere la Santa Famiglia. Chokmah e Binah sono i genitori e Ziran Pin e Malchut sono i loro figli. Tutto consiste in queste quattro fasi e queste quattro fasi sono come preparazione per la fusione con il superiore. Qual è la fusione più elevata? La fusione più elevata è l'eterna fusione, o in ebraico l'eterno zivug. Questa è la condizione del superiore, Chokmah e Binah. E questo elevato zivug significa che padre e madre con i loro figli sono in una relazione eterna tra loro. E con i loro figli, Ziran Pin e Malchut, noi intendiamo il nostro mondo. Ma dopo la demolizione dei templi, questo elevato Zivug eterno è scomparso. E il nostro compito è di effettuare correzioni così Ziran Pin e Malchut vengono di nuovo in rapporto con il loro padre e madre superiori. Ora Ziran Pin e Malchut sono a volte in Zivug, l'uno con l'altro, e a volte no. A volte si guardano l'uno e l'altro, faccia a faccia, e a volte sono schiena a schiena, o lui ha la sua faccia voltata verso la schiena di lei, o lei ha il suo viso rivolto verso la schiena di lui. Ma il superiore padre e madre, Chochmah e Binah, sono sempre in uno zivug eterno. Questo è ciò che apprendiamo nella Kabbalah, per conoscere la Santa Famiglia Superiore e per fissare il nostro obiettivo di essere come loro. Tutte le benedizioni vengono da Chochmah e Binah. Tutta la forza viene da loro. E quando miriamo i nostri pensieri a loro, anche noi possiamo venire nella stessa relazione come sono loro. Certo, non limpido come loro, ma in un certo modo è lo stesso. Quando arriva la fine, è quando il Messia arriva, ci sarà l'eterna fusione completa, l'eterno Zivu. Anche nei Zirampin e Malchut. Tra Zirampin e Malchut. Cosa significa questo? Non ci sarà più carenza né con lei e né con lui. Nessun sentimento di dramma o trauma. Nessuna sensazione celeste, solo completezza. E noi possiamo realizzare questo. Tutte le forze spirituali sono qui e questo dà forza. Alla fine Zirampin sarà visto come il sole e Malchut come la luna. Nel nostro mondo vediamo il sole, è enorme, è pieno di luce, mentre la luna è piccola e ha carenza. Il che significa che a volte lei è enorme quando è insieme al sole e lei ha carenza quando non sono insieme. Questo è il motivo per cui tutte le festività speciali sono nei giorni della luna piena. Questo è il momento più bello per sperimentare l'unicità della forza superiore. Abbiamo visto nella lettera Yud, tutto è in questa lettera. E Yud è Chochmah. Adesso guardiamo a Binah. Dov'è Binah nelle quattro lettere del nome Yud Hei Vav Hei? Quando uno scrive la Torah, ha severe regole. Prima lui inizia con il punto e poi il Yud, la più piccola lettera. Prima lui fa un punto, Keter, e da questo punto disegna linee corte, linee più lunghe, eccetera, eccetera. Binah è la lettera Hei, ma lo scriba ha iniziato con il punto Keter di Binah. E la prossima fase è lo Yud, Chochmah della Binah. In ogni cosa possiamo vedere questo inizio di Keter e Chochmah. Prima il punto e poi il passo successivo. In ogni cosa ho Keter e Chochmah. Qualunque cosa esista nel nostro mondo ha queste quattro fasi. Keter, Chochmah, Zeira, Bina, Malchut. Tutti i pensieri e tutti i desideri sono formati attraverso questi quattro punti di forza. In ogni desiderio, in ogni kli, vedi le quattro fasi. Anche in ogni struttura puoi vedere queste quattro lettere, Yud, Hei, Vav, Hei. In ogni soluzione di un problema vedi Yud, Hei, Vav, Hei, come e perché, te lo spiegherò più tardi. Prima noi vediamo la lettera Yud, questa è Chochmah. Il primo Hei è Binah. In un certo modo, all'inizio lei faceva parte dello Yud, ma in seguito lei stessa si separò da lui. Lei ha costruito i propri punti di forza e lei ha fatto questo nel modo di limitazione. Il suo elemento successivo è l'elemento maschile dentro di lei. Il piccolo Vav nella lettera Hei. Puoi vedere questo come un periodo di gravidanza. Prima l'aspetto maschile in lei doveva crescere e solo quando il bambino è nato si sente libera, sollevata. Quando il bambino è ancora nella sua pancia, è un lavoro duro. Ma quando il bambino è nato, lei è sollevata. E questo è il momento per diventare indipendente. Il bambino cresce e deve anche diventare indipendente. Non c'è differenza tra questo mondo e il mondo spirituale. Quando Zeiran Pin viene dalla sua pancia, Zeiran Pin ha una testa, che significa 10 sferot, ma anche lui. Yud, Hei, Vav, Yud, Hei, Vav, Hei. Come ho detto prima, ogni cosa che è in esistenza è Yud Hei Vav Hei. Abbiamo Vav come una lettera, ma anche la parola Vav. Qui abbiamo anche un elemento di Binah, ma te lo spiegherò più tardi. Alla fine del Vav, Zeiran Pin, abbiamo Malchut. Ma lei Malchut non è ancora sviluppata. Vedi la lettera Vav due volte. Vav, in pieno. Vav, Aleph, Vav. Come abbiamo detto prima, quando noi scriviamo una lettera intera, piena, significa che c'è il riempimento. Vav riempito. Nell'ebraico è milui. Nell'ebreo è milui. Due volte la lettera Vav, una ricezione indipendentemente dalla luce. Un Vav da Zeiran Pin stesso. E con questo Vav lui dà a lei. E lei può solo dare quello che ha la lettera Vav. E quando hanno Entrambi la lettera va, vediamo un malchut perfetto, un perfetto elemento femminile. Quando una donna è dipendente dal suo marito, sai, essere innamorati è meraviglioso, vivere insieme è meraviglioso, ma quando lei dipende ancora da lui, lei se ne avrà via, lei se ne andrà via. È lo stesso quando un uomo è troppo dipendente dalla moglie, quindi fugge via. Perché? Perché in ogni relazione uno deve diventare indipendente. Entrambi devono crescere. Ora potresti chiederti perché è felice. Solo per avere figli? O che lui, lei si prenderà cura di me? Devi sapere, in un modo interiore, alla fine, una donna deve diventare indipendente dal suo uomo. Alla fine di tutto lo sviluppo dell'uomo, vediamo se alla fine Malchut. E Malchut sarà uguale a Zirapin, solo allora ci può essere l'eterno Zivug, quando sono sulla stessa altezza. Quando lei ha 10 sfirot e lui ha 10 sfirot, parliamo di una vera relazione tra uomo e donna. Non quando lei è come una schiava per lui o quando lei è così femminista. Entrambi hanno torto. Entrambi sono nell'atteggiamento di un bambino. Non va bene quando lei si comporta come una schiava, ma non va bene neanche quando si comporta in modo molto femminista. Entrambe sono re reazioni infantili. E non pensare che questa sia una cosa solo per la donna. Per l'uomo è lo stesso. Può comportarsi come un maccio, poi trascura la sua parte sinistra, la sua parte femminile dentro di lui. E quando ciò accade in una relazione, entrambi saranno molto infelici. Perché? Entrambi sono comportamenti infantili. E questo non è secondo il piano della creazione. Ognuno di noi ha entrambi gli elementi dentro di noi, maschile e femminile. In tutto devono esserci 4 elementi. Yud, Hei, Vav, Hei. 2 elementi maschili e 2 elementi femminili. E alla fine dello sviluppo saranno uguali tra loro. Maschili e femminili. Il sole sarà uguale alla luna. Zeirampin uguale alla Malchut. Il significato di 2 grandi luci nel cielo che splendono ugualmente. E questo è già stato scritto, ma nei primi tempi uno non riusciva a capire quale fosse il significato di questo. Che anche durante il giorno e la notte lu la luce deve splendere. È scritto era sera ed era mattina, un giorno. Cosa significa questo? La sera e il mattino insieme sono un giorno. E non solo la sera o solo il mattino. Il mattino è Zeirampin e la notte è Malchut Nukwe. L'aspetto femminile con carenza di luce. Ma alla fine saranno uguali, indipendenti, indipendenti gli uni dagli altri. Perché questo è il desiderio del Creatore, essi trova dentro la creazione. Ma per ora questo è un enorme problema. L'uomo e la donna devono crescere all'interno di una relazione. Entrambi devono diventare adulti. Prima lui seduce lei perché il suo sviluppo non è finito. Lui vuole fare sesso, ma si rifiuta di lavorare su se stesso. Ma lentamente ci sarà un cambiamento, perché lotta con l'uno all'altro, combattere è guerra, e la guerra è un atteggiamento molto infantile. I nomi di Boré. Parecchi nomi del Creatore si riferiscono alle sue multiple e comprensive qualità, considerando l'essere umano. O in altre parole, usiamo il nome Boré perché in questo nome vediamo la rivelazione di queste qualità, considerando questo nome. Rachamim, gentilezza, amorevole. Sadik, colui che è giustizia, Nora, ispirazione, Rachok, da una distanza, Karov, da vicino. Come ti ho già detto, non è possibile comprendere Boré, creatore. Ciò che possiamo comprendere è la luce che proviene da lui, o per essere più precisi, la parte della luce che entra al Cli. Tu sei il Cli e risveglia in noi una sensazione specifica. E questo noi chiamiamo Boré. Ogni parola, ogni segno nella Torah porta l'informazione di Boré. Porta la sua rivelazione, perciò diciamo l'intera Torah e il nome di Boré. Keter. Con Keter ci riferiamo alla luce che diviene da Boré. E in questa luce è incorporato l'embrione della creazione in arrivo. La luce diretta Oriashar si riferisce alla creazione nascosta e noi ci riferiamo a questo con un piccolo punto. In un certo modo un punto è l'inizio di ogni cosa. Chochmah è il primo versamento della luce nel Kli, temporaneo senza alcuna reazione. Questa fase è chiamata Chochmah e il riferimento è il punto con una piccola linea. Yud, puoi vedere questo Yud come una traccia di luce dentro un Kli. È la lettera Yud ed è l'aspetto maschile della creazione. Binah, lei è la prima reazione del Kli sulla luce, è la comparsa della luce Chasadim. E noi ci riferiamo a questo come lo scorrimento della linea nella larghezza, o in altre parole alla prima limitazione. Questo è l'aspetto femminile nella creazione, perché la limitazione è una forza femminile. Zeiran Pir si riferisce alla lettera Vav. È al secondo versamento dello splendore della luce Chochmah da sopra al basso. Questo è anche un aspetto maschile nella creazione. Il versamento è un aspetto maschile. Malchut. Ci riferiamo a Malchut con la seconda lettera Hei. La stessa Hei come in Binah. Questa è la fase di un desiderio completo, Kli. È chiamata la seconda limitazione della luce. Anche questo è un aspetto femminile nella creazione. Ogni cosa che era, è. E sarà creato a 10 Sfirot, o in altre parole, 4 gradi o Madregot di un Kli, 4 perché la radice Keter è il punto della lettera Yud. Questi sono tutti i tipi di varietà del riempimento individuale. Su in cima, tutte le creature che hanno lo scheletro del nome Havai. Dentro un Kli entrano due tipi di luce, Or Hasadim e Or Chochmah. Sebbene non possiamo parlare del mondo Olam spirituale, circa i luoghi, eccetera, noi facciamo uso di un linguaggio come ramificazione, forcella, eccetera, eccetera. Per esempio, diciamo Or Hasadim versa se stessa in larghezza e Or Chochmah versa da sé stesso, da sopra a sotto. Chassadim si riferisce alla parola Chesed, che significa misericordia. Una mano larga, un grande cuore, un'anima schieta. Chochmah si riferisce alla luce che viene da Borea alla creazione. In questo vediamo l'espressione delle forze spirituali. Quando vedi stampato una linea orizzontale nella Kabbalah, nota che questo si riferisce al versamento di Or Hasadim all'interno di un Kli. Questo Quando vedi una linea verticale si riferisce al versamento di Or Chochmah dentro un Kli. Le sorgenti di tutte le lettere sono Yud e Aleph. Ogni immagine è particolarmente una lettera, è come un Kli su un foglio di carta bianco. Lo sfondo deve essere visto come la luce, ora. Non c'è limitazione. Non è possibile comprendere la luce, ora, con i nostri occhi materiali, perché anche i nostri sensi sono finiti.